Il punto di Stefano Folli. Non c'è dubbio, c'è una nuvola nera che aleggia sulla campagna elettorale ed è il caso del Monte dei Paschi di Siena. Per le sue implicazioni politiche è un veleno, un autentico veleno destinato a inasprire i toni di un confronto peraltro sempre più teso. Viene usato come una clava per colpire il Partito Democratico, o almeno quello che è stato per anni il sistema di potere che a Siena ruotava intorno agli eredi del Partito Comunista, ma anche per tentare di mettere sotto accusa certi interventi del governo Monti. Lo sfruttano in questo caso il centrodestra e la Lega, ma chi davvero se ne può avvantaggiare, lo vedremo nelle prossime ore, è Beppe Grillo, che cerca un buon tema per risalire la china recuperando lo smalto dei mesi scorsi. Forse lo ha trovato all'ombra della Torre del Mangia.